attività, una parola all'altra dal direttore di un rappresentante del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche e di Studi Internazionali, e poi potremo cominciare. Arriverà verso le 10 anche il lettore, che ci teneva molto a portare i suoi saluti. Quindi in modo assolutamente informale procediamo immediatamente con i nostri lavori. La parola al professor Vecchi. Intanto mi dispiace di aver interrotto, ma devo dire che non è tutta colpa mia, perché c'è una questione di traffico irregolare, o come sempre la dico. E io sono qui come presidente anche dell'Istituto Valley della storia delle resistenze dell'età contemporanea, ma sono stato mandato espressamente dal sindaco per portare un saluto. Il sindaco Ivo Rossi ha sempre frequentato da quando è consigliere comunale con me da 25-30 anni queste aule, quando si trattava di parlare, come sarà oggi, di questioni storiche contemporanee, poi in casa nostra in particolare sulla prima guerra mondiale. E devo dire che lui stesso potrebbe ricordare quante sono state le occasioni per ritrovarci e dare anche una traduzione, anche storicistica. Sono stati pubblicati nelle varie ricorrenze, la prima fu appunto quella del 43, quindi 70 anni. Quindi noi già da allora producemmo un video con la collaborazione di Giorgio Secato, un libro che riguardava oltre il 43 tutta la questione della storia della guerra mondiale a Padova, perché Padova costituisce un po' un caso, diciamo, particolare, perché pur avendo contribuito a dare luogo a tante vicende di quegli anni, non ha avuto quella posizione di riconoscimento assoluto di contributo alla grande guerra, come invece altre città, vicine alla Vicenza. Per una ragione si diceva e si dice che in fondo un luogo di combattimento nella provincia non c'è stato. Ora, la storia si può giudicare solo sui luoghi di combattimento, si può giudicare anche sui luoghi della pace, e noi ce l'abbiamo vita giusta. Ma insomma, questa è la milizia dei cittadini. No, non ha mai valorizzato in modo aperto questo contributo. Tanti la bandiera, il nostro compagno della città, possiede una piccola medaglietta come quella dei soldati che stavano in trincea, ma non ha quelle medaglie d'oro così prestigiose che si è guadagnato giustamente, per dire, anche per esempio con le scienze. Comunque noi come città abbiamo prodotto sin dal dopoguerra una serie di documentazioni, tra le quali una straordinaria ed eccezionale, che è il famoso volume di Guido libro, che tra l'altro lo scrisse poco prima di diventare contestato. Ma è un libro luminoso, in cui c'è tutto quello che si può sapere di cui per riguardo i rapporti appunto tra guerra e città. E questo libro è stato sempre molto consultato, e anche nel 70esimo, quando facevo appunto il convegno con quello di oggi sul 43, richiamavo subito l'interesse delle ricerche, insomma, ma tutto quello che era stato scritto era tanto sufficiente che non ci fu dato a tutti noi di dare risultati concreti, come concluse Marie Lene alla fine del convegno. Ora noi ci ritroviamo qui a stabilire un rapporto di terzo di quello che il 43, cioè la grande guerra, ha stabilito nell'evolversi degli avvenimenti successivi. Noi ci siamo impegnati su questo fronte e via via avanzavano delle ricorrenze come quella di quest'anno. Ed è un'impresa apparentemente facile, che però ha sempre trovato, anche da parte dei giovani e in genere delle acquisizioni generali, delle difficoltà, perché la guerra mondiale, come tutte le grandi guerre, è complicata e non lascia facilità anche di memorizzazione. Non parliamo dei giovani che ancora confondono la prima guerra mondiale con la seconda. Quindi quando si parla del 43, come oggi mi parlano di convegno su questo, bisogna subito dire che non è il 25 luglio del 1900. Del 1950 io ero avevo 23 anni, insomma. Fate il calcolo sui miei anni, quella della caduta dei fascisti. E allora il compito, penso vostro, sarà molto importante e interessante, non solo per l'autorità delle presenze, ma proprio per l'argomento e soprattutto per quello che dovrebbe muovere i giovani a conoscere questo periodo, perché se non si parte dalla conoscenza più approfondita di cui non mancano la documentazione, mezzi di riscendimento culturale, se non si parte da lontano, in questo precedente, in quel precedente secolo, e noi non arriviamo nemmeno a comprendere bene tutto il percorso politico che si centra sul trapasso dalla società liberale, dal tipo di condotta politica liberale a quello fascista. del fascismo a mettere in correlazione la prima guerra mondiale. Quindi se noi per molti anni, quando io ero giovane, siamo andati nel 1921, potete ancora voi dell'età, ecco, se siamo riusciti a portare avanti questa tradizione anche culturale, non dimentichiamoci mai questo rapporto con Dio. Io darò personalmente anche qualche contributo, forse diciamo il più rilevante, che è quello che e fu quello sulla condizione di vita giusta. Siccome nessuno si era mai preso la briga di approfondire il successo del piccolo evento anche intorno alla preparazione dell'armistizio e alla condotta guidata, come è noto, da generale Graziano. Insomma, noi aspettiamo da questo congresso anche cose nuove. E quindi ora, complimentandomi con i presenti, faccio molti auguri in attesa di imparare ancora cose nuove. Penso in modo particolare come inizio del riscatto, per così dire, della corsa politica intellettuale e morale che hanno avventato un po' in relato. Ecco, tutti noi pensiamo naturalmente al discorso, al famoso discorso di Concetto Marchesi, pensiamo a valori. Sembra una frase un po' desueta, un po' demodé, ma ma io ci credo fortemente perché è su questo che è fondata il nostro Ateneo e che cerchiamo di portare avanti con il nostro lavoro. Grazie a tutti e saluti dal professor Bassoli che domani sarà tra i relatori ma che stamattina a lezione non ha potuto essere presente. Quindi credo che si possa dare via ai lavori, non sto cercando di vedere. Volevo solo, grazie Alba. I relatori della mattinata, il professor Pollotti, il professor Ponzi e il Marcello Torres ad accomodarsi. Due parole, due, per dirvi che avevamo dato una particolare struttura al nostro convegno. Marcello Torres, che è il presidente del comitato scientifico dell'Istituto Nazionale, che insieme a noi ha organizzato, sa bene quanto si è discusso di questo convegno. E l'avevamo pensato in modo abbastanza originale, insomma, un po' diverso dai soliti convegni, ovvero tre grandi relazioni, tre vere, dire, lecture, vere e proprie, strutturate, in cui il relatore avesse il tempo di raccontare e discutere il tema che lui ha affidato e un ampio spazio per la discussione. Come spesso le belle teorie sono un po' violentate dai fatti brutali, abbiamo dovuto aggiustare, quindi tematicamente il professor Overy non riesce, non è in viaggio, sta arrivando, quindi parlerà nel pomeriggio. Oggi quindi il professor Colotti, lo ringrazio calorosamente, parlerà stamattina e non nella sessione in cui trovate la quarta sessione che trovate indicata. Poi ci sarà il professor Ponzi, che sostituirà anche il professor Lavanca, il quale, succhiato da drammi di dipartimento, non sarebbe stato in grado di arrivare questa mattina. Quindi abbiamo dovuto aggiustarci in questo senso della nostra architettura, anche tematicamente è un po' incrinata da questi fatti, ma sono sicuro che la nostra intelligenza riuscirà a queste cose. Una è invece un'assenza che mi piace moltissimo, vuol dire che è stata l'unica, quindi statisticamente è andata anche molto bene rispetto alle prassi dei convegni, la professoressa Elena Garossi non può essere qui con noi, le hanno anticipato un intervento non procrastinabile, la ginocchia mi ha scritto, mi ha telefonato per dirmi quanto le dispiace, le mandiamo i nostri auguri più affettuosi e noi rimanda. Io darei subito la parola a Marcello, a Marcello Torres che può dirsi di scegliere danza. Allora, buongiorno. Con molto piacere anche come direttore scientifico dell'Istituto Nazionale della Storia del Movimento di Liberazione, che partecipa a diversi convegni che diversi istituti hanno cominciato e stanno cominciando e continueranno a svolgere sia quest'anno a partire dalla conferenza del 43 sia nei prossimi anni. Questo di Padova è particolarmente importante perché cerca davvero di affrontare il tema del 43 in uno spettro globale e complessivo. Darei subito la parola al professor Enzo Pollotti. La sua relazione sull'antifascismo nell'Europa occupata, poi avremo, come già anticipato Fulmine, quella di Paolo Ponzi sul nuovo ordine europeo, faremo poi un breve break e successivamente Thomas Schlemmer parlerà dei fronti della Germania, quindi si ritornerà a quella che doveva essere l'obiettivo della mattinata, cioè delle strategie militari e complessive. Prego, professor, di cominciare 40 minuti per riuscire a stare nei tempi e soprattutto per dare la possibilità e lo spazio poi alla discussione a cui ovviamente teniamo in modo particolare. Grazie. complesso di portata europea per la sua dimensione, in quanto fattore nuovo che si inseriva nel contesto della Seconda Guerra Mondiale come iniziativa di carattere popolare, da parte, non prevista da governi per strategie di potenza, ma al tempo stesso fortemente articolato e condizionato da contesti nazionali diversi, non soltanto in ragione della politica sviluppata dalle potenze dell'asse in quanto potenze occupanti, ma anche e soprattutto dall'eredità della lotta politica e delle dinamiche sociali che diversi paesi avevano vissuto nell'Europa tra le due guerre. Ciò che associò i diversi movimenti di resistenza fu la comune opposizione all'occupazione dei rispettivi paesi da parte della Germania nazista e dell'Italia fascista e la ribellione al progetto di imposizione di un nuovo ordine europeo fondato sulla supremazia politica e razziale delle potenze nazista e fascista, in particolare sull'egemonia della Germania nazista, decisa a imporsi come forza motrice di una unificazione imposta all'Europa che era destinata a rappresentare, da un lato, che la funzione subalterna di fornitrice di produzioni industriali agricole, di materie prime e di braccia da lavoro per il Terzo Reich. La complessità della resistenza fu quindi in rapporto con i caratteri che l'oppressione nazista e fascista assunse nei diversi paesi, con il rapporto con la successione cronologica delle operazioni belliche sul continente europeo nelle quali si inserirono le forze della resistenza. Entrambi questi fattori incisero profondamente sulle caratteristiche della resistenza, al pari dei condizionamenti internazionali che derivarono dai rapporti tra gli stati componenti della coalizione antifascista e antinazista. La Polonia era stata il primo paese aggredito dalla Germania nazista e fu anche il paese in cui l'oppressione dell'occupante per primo rivelò la violenza antinazionale e razzista, che al suo culmine avrebbe fatto della Polonia non solo il più cruento laboratorio del razzismo nazista e della soluzione finale della questione ebraica, ma anche il teatro del più spietato sfruttamento delle risorse economiche del paese e dell'asservimento della sua popolazione, sottoposta ad un processo di brutalizzazione sociale, civile e culturale. Ma la Polonia, compressa tra la Germania e l'Unione Sovietica, visse sul suo stesso corpo il conflitto strategico di potenza per questi due colossi. All'interno della stessa resistenza polacca, la spaccatura tra una resistenza filo occidentale che guardava al governo dell'esilio londinese e una resistenza filo sovietica avrebbe attraversato l'intero arco cronologico dell'occupazione nazista, sino a culminare nel fallimento delle rivolte di Varsavia dell'agosto del 1944, che rappresentò, insieme alla repressione operata dalle forze britanniche contro la resistenza in Grecia, la più dura sconfitta dell'ambizione dei movimenti di resistenza di imporsi al rispetto delle potenze anche contro i loro diretti interessi strategici. La stessa Polonia era stata teatro nella primavera del 1943 dell'insurrezione del ghetto di Varsavia, che non avrebbe avuto alcuna possibilità di impedire lo sterminio dell'ebraismo polacco, ma che fu come un segnale luminoso della volontà delle popolazioni oppresse di non capitolare senza combattere. Ben diverso dagli altri il caso dell'Italia, in cui le forze della resistenza entrarono in campo tra le ultime in Europa, dopo l'armistizio del settembre del 1943, quando la Wehrmacht non era ancora battuta, ma era già sulla difensiva e quando le armate alleate avevano già stabilito, con l'invasione della Sicilia e della Calabria, una testa di ponte sul continente europeo. Ultima a entrare in campo, la resistenza italiana conobbe una fortissima e rapida evoluzione, impensabile senza la disintegrazione del Regno strada dell'arte e con le forze della rinata Repubblica Sociale, la cui presenza trasformò lo scopo degli occupanti in una vera e propria guerra civile. Alla funzione di collaborazionismo con la Germania nazista, la Repubblica Sociale aggiunse infatti quella di farsi promotrice di una nuova stagione di violenza del fascismo, associandosi alla sorte del Terzo Reich nella fase del suo estremo arroccamento nella fortezza Europa, legandoci quindi anima e corpo al cavo del nazismo, quando più disperata e perciò più forsennata si faceva la sua volontà di fare barricate intorno al Reich. Tra questi estremi, la Polonia da una parte e l'Italia dall'altra, l'intera Europa occupata alimentò la resistenza contro le potenze dell'asse. In genere si suole distinguere il carattere della resistenza nell'Europa occidentale da quello della resistenza nell'Europa centro-orientale per le sue diverse motivazioni e per la sua diversa tipologia. La distinzione appare fondata in primo luogo per il diverso rigore dell'occupazione nazista e quindi per la natura della risposta che ad essa diedero le popolazioni. Ho già accennato alla situazione della Polonia. Una situazione per certi versi analoga si verificò nell'area dell'Europa sud-orientale balcanica invasa dall'Italia fascista o perché dalla Germania nazista, in cui tuttavia la violenza degli occupanti si inserì in una situazione di frammentazione delle nazionalità che da una parte regolò il progetto di distruzione dell'assetto prebellico delle potenze occupanti, dall'altro agevolò movimenti autonomistici e separatisti destinati, come nel caso della Croazia risolta come stato d'assalto delle potenze dell'asse, ad inserire nuovi fattori di conflittualità e di esasperazione di antichi conflitti etnici, religiosi e politici in un'area di forte instabilità e già prima della guerra caratterizzata da forti scontri anche di classe. Un teatro operativo nel quale la distruzione del Stato jugoslavo, nato dai trattati di pace posteriore alla prima guerra mondiale, agevolò lo sviluppo del movimento partigiano di Tito e ne affermò l'egemonia grazie all'appello che soffrisse all'unità tra le diverse nazionalità divise e sfruttate dalle potenze occupanti e quindi al carattere di lotta per la liberazione e l'eguaglianza delle nazionalità che esso associò alla lotta per le riforme sociali, specie per la riforma agraria, che era per le aspirazioni frustrate del periodo del guerra. Il carattere strategico dell'area balcanica consolidò la posizione del movimento partigiano di Tito contro il movimento dei Cechi, il movimento nazionalista e monarchico, serbo, anticomunista, appoggiato dal governo di Jugoslavia e Siria Londra, sullo stesso serbo la risposta alla forza di Tito per motivazioni prettamente strategiche, considerandolo militarmente consistente nella lotta contro gli occupanti. All'estremità della penisola balcanica, anche nel movimento partigiano inglese, diviso tra le forze filomonarchiche dell'Edes e quelle della sinistra dell'Elas, l'attività contro le forze d'occupazione era associata ad un'intensa iniziativa politico-sociale per il cambiamento degli assetti sociali. Fu soprattutto sulle divisioni all'interno delle forze della resistenza che fecero leva principalmente gli inglesi, decisi a sostenere la monarchia come garante degli interessi britannici in quell'area del Mediterraneo, ritenendo, come in effetti sarebbe avvenuto, che la Grecia rientrasse nella loro sfera di influenza e non dovendo temere quindi interferenze di altre potenze, che nel caso specifico avrebbe potuto essere unicamente l'Unione Sovietica. Infine, nell'area dell'Europa orientale resta da considerare la posizione particolare dell'Unione Sovietica. Questa risposta alla violenza della condotta bellica nazista, che assunse forme di vera e propria guerra di sterminio, organizzando alle spalle delle armate naziste una forma di resistenza che conoscono spesso alcun altro monumento organizzativo. A differenza di quello che avviene per tutti gli altri monumenti di resistenza, infatti, facendo leva sulle caratteristiche del territorio che consentiva di sfruttare larghi spazi alle spalle delle forze della Wehrmacht che avanzavano, lo Stato Maggiore della Armata Rossa ha predisposto la dislocazione di militari italiani al carro anti-tanque direttamente inserito operativamente alle sue dipendenze, garantendo loro un adeguato armamento e tutta la possibile assistenza anche aerea, una condizione di cui non è da costituire nella medesima misura nessuno degli altri movimenti di resistenza. L'inquadramento di queste unità a sostegno dell'Armata Rossa, un aspetto forte della capacità non solo organizzativa di opporsi all'invasione tedesca. Tuttavia, nella opposizione ai nazisti, la popolazione dei territori sovietici invasi non è un comportamento omogeneo. I nazisti, nella loro fiorata contro l'Unione Sovietica, fecero largamente appello ai sentimenti nazionali di classe che erano stati lesi dallo Stato sovietico, e si pertanto associarono alla violenza ideologica contro il giudeo-bolscevismo, come veniva definito lo Stato bolscevico per potenziare nei tedeschi l'ostilità alle popolazioni slave considerate senza carattere superiore, l'appello alle popolazioni di minoranze nazionali, specie nei territori caucasici, perché si ribellassero all'Unione Sovietica e accogliessero i tedeschi come liberatori delle loro nazionalità, e alle popolazioni contadine l'appello a rivendicare la proprietà delle terre che erano state collettivizzate dalle prime società. Non c'è dubbio che questi appelli riscossero un certo successo. Centinaia di migliaia furono gli ucraini e gli appartenenti alle popolazioni caucasiche che si arruolarono nei corpi militari collaborazionisti e che sostennero i tedeschi sino all'ultimo, finendo dopo la guerra vittime di un'altrettanto violenta repressione ad opera del regime staliniano. I frutti avvelenati del nuovo ordine europeo furono lenti a morire per queste popolazioni. Nella tipologia dei movimenti di resistenza, caratteri ancora diversi che sono propri della sua specificità e della resistenza in Francia. Premesso che fu la Francia che continuò ai diversi movimenti in Europa il termine del concetto della resistenza, anche in Francia la resistenza trovò una lenta maturazione, una grande complessità di problemi e di situazioni. L'immagine provvidenzialistica che in Francia la resistenza sia nata sulle prime in campo dall'appello lanciato il 18 giugno 1940 dal rifugio londinese del generale De Gaulle va immediatamente sfatata. Anche in Francia la resistenza nasce dalla divisione del paese e dell'opinione pubblica. Senza pensare alla grave crisi morale, e non solo alla sconfitta militare, e non solo alla crisi politica e sociale di cui parla Marc Bloch in Una strana disfatta, è difficile comprendere la risonanza che ebbero da una parte l'appello alla risposta del De Gaulle, dall'altro l'appello tradizionalista contro la democrazia della Terza Repubblica, sconfitta oltre che dai tedeschi appunto dalla crisi morale del maresciallo Pétain, Honneur e Papin. Anche la Francia era dunque divisa, inseguì la mobilitazione di una parte del paese contro l'altra parte, quella che si illudeva di poter ridare un ruolo alla Francia nell'Europa di Hitler, venendo a patti con l'occupante e vendicandosi della democrazia e dell'esperienza del fronte popolare, che la destra aveva vissuto come un incubo, o addirittura che nella sua estrema deriva collaborazionista si prospettava la costruzione del corpo del paese attraverso la sua completa e subita nazificazione. Compresa nelle varietà delle motivazioni che coinvolsero uomini delle forze politiche tradizionali, radicali, socialisti, i comunisti dopo l'iniziale esitazione di fronte al fenomeno di Scino e al decantarsi degli schieramenti internazionali, politici e sindacalisti, forze sociali, operai e intellettuali, combattenti dell'esercito sconfitto, la resistenza dovette affrontare anche una pluralità di dislocazioni territoriali, adeguandosi alle condizioni della Francia dopo l'armistizio. Gli uomini più vicini a De Gaulle si sarebbero radunati in Inghilterra, ma la grande riserva di uomini della Francia combattente fu rappresentata dalle guarnigioni delle colonie, vero retroterra della Francia libera, terreno di incontro con gli angloamericani e concreta incarnazione di una residua sovranità del paese fuori dal continente europeo. Ciò che naturalmente avrebbe alimentato anche nella Francia della Resistenza, a cominciare da De Gaulle, l'illusione della sopravvivenza dell'impero e dell'unità alla Francia metropolitana dei territori coloniali. La distribuzione della resistenza non fu determinata soltanto da fattori di carattere geografico, le aree urbane e quelle montagnose, dalle Alpi al massiccio centrale, ma anche della ripartizione del paese in due diversi settori di occupazione, quello tedesco e quello italiano, e dalla presenza di un'area controllata direttamente dal regime di Vichy, almeno fino al novembre del 1942, quando tedeschi e italiani invasero anche l'area libera dalla presenza diretta degli occupanti ed estesero il regime di occupazione all'intero territorio nazionale. Un ulteriore mutamento si ebbe con l'armistizio dell'Italia nel settembre del 1943, a seguito del quale la Wehrmacht estese le sue forze di occupazione su tutto il territorio francese. All'inizio la linea di demarcazione era costituita dall'area di occupazione diretta della Wehrmacht nel centro-nord della Francia, incluso il comprensorio urbano parigino, che si lasciava a sud l'area controllata dal governo. In quest'area di centro-sud la resistenza è del suo epicentro urbano nella metropoli lionese. Al sud inoltre la possibilità di reclutare proseliti da parte della resistenza era cresciuta dalla gran massa di rifugiati disponibili a impegnarsi nella lotta, tra cui emigrati di varie provenienze antifasciste, ebrei, ex combattenti di Spagna, tedeschi, italiani, austriaci, polacchi. L'occupazione totale diretta dell'intero territorio francese, contrariamente alle aspettative della potenza occupante, avrebbe finito per favorire anche l'unificazione e l'omogeneizzazione della resistenza delle forze francesi dell'interno. Attraverso il caso della Francia è possibile quindi dimostrare come anche nell'Europa occidentale la resistenza si sia sviluppata attraverso una successione di fasi cui corrispondono modalità organizzative e operative diverse. Rimane fuori da questo quadro il problema della resistenza in Germania e in Austria. La Germania non ha conosciuto forme di resistenza come quelle sviluppate in tutta Europa contro l'occupazione di una potenza straniera. Per questa ragione, soprattutto nell'immediato dopoguerra, quando più vivi erano dappertutto i ricordi e i sentimenti legati all'esperienza recente dell'occupazione, si è fatta strada fatica il riconoscimento dell'esistenza all'interno del Terzo Reich di un ramificato movimento di opposizione, al di là del ben noto fenomeno dell'emigrazione prevalentemente intellettuale. La diffidenza verso l'opposizione interna negli anni 50 risultò ulteriormente alimentata dal fatto che, soprattutto negli anni del regime di Adenauer, per complesse ragioni politico-culturali e per l'imperante pregiudizio anticomunista, la resistenza venne identificata come i protagonisti del complotto anti-israeliano del 20 luglio 1944, laddove la revisione storiografica messi in evidenza sia i limiti che le caratteristiche dell'attentato antisperiano, della cui preparazione si fussero aspetti della fonda anarchista e aspetti di autentica opposizione al regime, sia all'esistenza di una vasta rete di iniziative di tipo di legale e base popolare ad opera di vecchi militanti del Partito Operaio Italiano, ma anche di circoli legati ad una piccola e media borghesia liberale democratica e a minoranze religiose. Un universo molto differenziato, ma soprattutto molto diverso dal mondo conservatorio e aristocratico, di una borghesia medio-alta, gli esponenti dell'alta burocrazia del ceto militare, cui la leggenda del 20 luglio avrebbe voluto consegnare la paternità esclusiva di un'opposizione a regime. Oggi il lavoro della storiografia ci consente di operare con strumenti concettuali e metodologici sufficientemente raffinati e di scavare a fondo nella specificità di un'opposizione interna del terzo Reich che non poteva esprimersi nelle forme della lotta armata, delle lotte di massa che furono tipiche di altre realtà soggette all'occupazione della terra, ma che non di meno rientra nel grande alveo della resistenza in Europa con le caratteristiche legate tra l'altro alla natura del regime nazista come regime del controllo sociale totale, dotato di un sistema terroristico di repressione senza uguali tra i regimi fascisti. E oggi gli studi non sottolineano soltanto la contrapposizione netta tra il sistema e i suoi oppositori, ma l'esistenza di un'area più larga forse di quanto non sospettassimo molti anni fa, che potremmo definire di non consenso al regime, così tra i civili, l'aiuto agli ebrei perseguitati, come nel corso della guerra tra i militari, rifiuto l'obbedienza fino al limite della dissoluzione. Un'area di osservazione molto importante per lo studio dei comportamenti individuali e collettivi in un regime totalitario, al di là della contrapposizione con senso di senso, che metterebbe in evidenza soltanto il carattere estremamente minoritario di ogni manifestazione di dissenso. Un discorso relativamente diverso si dovrebbe fare per l'Austria, per la quale dopo il 1938, ossia dopo Nazi, valgono molte delle osservazioni anticipate nel caso della Germania, ma nella quale, almeno fino al 1938, massima nell'era della dittatura credico-fascista, esistette una tradizione illegale di impronta decisamente antifascista, che era l'erede diretta della battaglia condotta nel febbraio del 1934 dal movimento operaio austriaco contro i cannoni di Dorfus. Questa ricognizione in diversi movimenti di resistenza può portare ad una prima considerazione di carattere generale. Nell'Europa occidentale, per ragioni diverse, Francia e Italia presentano i livelli più alti di politizzazione della resistenza, nel senso della ridiscussione di assetti politici generali. In altre situazioni prevalse un'istanza prioritariamente patriottica. Ciò accade in modi diversi in Olanda, in Norvegia, in Belgio e in Danimarca. Situazioni tutte nelle quali l'invasione aveva avuto un equilibrio di totale realtà politica e di forte stabilità sociale. In tutti questi casi l'obiettivo ultimo della fede alla resistenza consisteva nella cacciata dell'occupante e nel ripristino dell'assetto istituzionale preesistente all'invasione. Una situazione non confrontabile con quella dei paesi dell'Europa centro-orientale in cui le istanze della resistenza non erano più radicali, soltanto perché più radicale non poteva non essere la risposta alla politica di oppressione e di asservimento al limite dello sterminio praticata dall'occupazione nazista, ma anche perché la resistenza metteva in discussione gli equilibri politici e sociali preesistenti all'invasione, prospettando il progetto di un profondo rinnovamento interno, con l'unica eccezione dell'Unione Sovietica, in cui l'obiettivo primo era il ripristino della sovranità e delle istituzioni preesistenti. Ho già detto che la resistenza assunse forme diverse a seconda dei diversi contesti politici, sociali, culturali e anche geografici nei quali si trovò ad operare. si sviluppò come movimento politico e anche militare. Il connotato militare assunse forme e dimensioni diverse delle realtà così disomogenee che ho così rapidamente abbozzato. Assunse caratteristiche di vero e proprio esercito di liberazione nelle situazioni in cui riusciamo a militare in denti masse intorno ad un progetto complessivo di trasformazione politico-sociale. Il caso più chiaramente rispondente a questo modello di una ideale tipologia delle forme della resistenza fu sicuramente quello della Jugoslavia. In Francia e in Italia prevalse l'azione armata in stretto collegamento con il processo di politizzazione che rileva la resistenza come manifestazione di massa, soprattutto scioperi, con un elevato contenuto politico. In molte altre situazioni l'azione militare fu più conforme al tipo di intervento preferito dagli alleati angloamericani, che privilegiavano di gran lunga l'azione di piccoli gruppi e come informatori degli alleati o come protagonisti di atti di sabotaggio alle spalle delle forze tedesche. Ma erano profondamente diffidenti nei confronti dell'espansione di grossi movimenti armati politicizzati per paura di doversi trovare un giorno dinanzi a scadenze o identificazioni politiche non previste o comunque divergenti dai loro progetti politici. Infine, non erano affatto favorevoli le iniziative dei movimenti partigiani che sconfinassero dal carattere della guerriglia e potessero assumere forme operative a schieramenti rigidi, insostenibili per le forze partigiane e comunque non sostenibili dagli alleati neppure con il rifornimento del bilancio. Per l'Italia si vede ad esempio la valutazione negativa che gli alleati davano della costituzione delle zone libere, che per il movimento italiano era invece un'esigenza più politica che militare. Si può dire in sintesi che gli alleati volevano l'appoggio dei movimenti partigiani, valutandoli soprattutto come elementi di questa storia a spalle davanti al regime tedesco, non ne gradivano l'evoluzione in forme di schieramento operativi, animati per giunta da un'ispirazione politica che non fosse il semplice obiettivo di cacciare i tedeschi e di accelerare la liberazione dei territori occupati o di accelerare l'operazione dell'armata alleata, per esempio nel caso della Francia la collaborazione con le forze della resistenza interna in occasione del bombardamento in Normandia fu un tema decisivo. Dal punto di vista strettamente militare il contributo della resistenza va valutato anche sotto il profilo dell'importanza che adesso attribuirono i tedeschi. Per essi la resistenza nel momento della tornarsi espansione, in particolare dopo la secessione dal conflitto dell'Italia e lo sviluppo della resistenza italiana, rappresentò un vero e proprio secondo fronte di combattimento senza soluzione di continuità dalla costa atlantica ai territori occupati nell'est europeo, come risulta dalle stesse fonti tedesche. La resistenza assorbì ingenti forze della Wehrmacht e di reparti delle SS della polizia. Impedì la mobilitazione di reparti altrimenti trasportati da un fronte all'altro in base alle esigenze tattiche, creò per il soldato tedesco un clima di insicurezza generalizzata. Ostacolò la mobilitazione di ingenti contingenti di lavoratori sui territori occupati per il lavoro forzato, sconvolse spesso il sistema dei trasporti. L'effetto psicologico che la resistenza produsse sui soldati tedeschi, provocandone l'isolamento presso le popolazioni, non fu certo l'ultimo dei risultati che essa conseguì. Un risultato così magistralmente rappresentato dal Delcor nel Silenzio del Mare, certo una delle testimonianze letterarie più alte di tutta la resistenza. Talvolta si creano gerarchie o si mettono in contrapposizione le diverse forme della resistenza, la resistenza armata e quella non armata, o resistenza civile, secondo la diritta espressione coniata dal Salvini. Il problema non è di operare rigide contrapposizioni, ma questa non avrebbe potuto minimamente esistere se non avesse avuto il sostegno diretto e indiretto, consapevole o consapevole, di quella resistenza diffusa nella società civile che fece veramente della resistenza un movimento collettivo, riflettendo la complessità dei comportamenti di uomini e donne, partecipi di un interrotto movimento di contestazione dell'autorità della forza d'occupazione e dei suoi collaboratori. La fenomenologia di queste forme di espressione della resistenza si rintraccia, con forme e dimensioni volte in volta legate alla specificità delle singole situazioni praticamente dappertutto. Anzitutto nella stampa e nella diffusione della stampa clandestina, una delle prime forme in cui si manifestò la resistenza come strumento in primo luogo per comunicare agli altri la volontà di resistere e creare intanto una rete invisibile di consenso, prima ancora che come mezzo per la circolazione di idee, di progetti, volontà di comunicazione e la fiducia dell'uomo. Attraverso di essa passava la propaganda per incitare a isolare il nemico, per sabotare la posizione, per impedire l'affollamento per le unità militari collaborazioniste o per incoraggiare la remittenza agli appelli di mobilitazione per il lavoro, per le diverse forme di solidarietà nei confronti di ogni categoria di personalità. I grandi movimenti degli scioperi, soprattutto in Francia, in Olanda e in Italia, dagli scioperi di solidarietà con i perseguitati, agli scioperi contro la fame e la vita, scioperi indirettamente politici che segnavano il dissenso dalla politica degli occupati. Le manifestazioni di donne contro la fame e le ristrettezze alimentari. L'impegno delle donne in tutte le grandi manifestazioni di assistenza di cui era piena la quotidianità della stagione della resistenza. L'assistenza agli ebrei perseguitati, ai partigiani feriti, ai soldati italiani che dopo l'8 settembre dovevano sottrarsi alla cattura da parte dei tedeschi, la solidarietà con gli scioperanti, con i carcerati, con coloro che si avviavano alla deportazione e via dicendo. Ho cercato di delineare diversi caratteri che la resistenza assunse nelle diverse parti d'Europa, ma al di là di questa specificità, che non derivano soltanto da caratteri locali ma anche da realtà storico-culturali, vi furono della resistenza come dei fili invisibili che ci consentono di parlare di una unità ideale della resistenza da un capo all'altro dell'Europa. Una valutazione di quel campionario esemplare di motivazione che è rappresentato dalle lettere di condannate a morte della resistenza europea ci conduce a scoprire nella pluralità delle motivazioni più soggettive di carattere umano, etico, religioso, politico la presenza di un nucleo forte di valori comuni legate all'amore e alla dignità della vita e al rispetto degli altri, al di là di ogni frontiera, e allo scontro per la vita e per la morte che nella storia della nostra civiltà provocato dall'affermazione del fascismo della vita. L'impegno totale di uomini e donne in una lotta spesso impare, soprattutto nell'immediato, non si può spiegare senza la consapevolezza dell'offesa che veniva inferta all'umanità. Credo che nessuno meglio di Albert Camus, impegnato nella resistenza francese, abbia sinteticamente espresso nelle sue clandestine lettere ad un amico tedesco lo spirito della resistenza, quando sottolineando l'idea e la speranza mai perduta d'Europa, esclamava perentoriamente: la nostra Europa non è la vostra. Posso cercare di schematizzare i fattori che unificarono più conto ma per il conseguimento di obiettivi comuni di diversi movimenti di resistenza come segue. Primo, lo sviluppo di ogni iniziativa di solidarietà e di aiuto in soccorso di tutti i perseguitati dalle forze d'occupazione e dai loro collaboratori, antifascisti, ebrei, remittenti alle leve per il lavoro obbligatorio o per il servizio militare, partigiani. partigiani, prigionieri di guerra reale, tutti coloro, insomma, che erano minacciati di deportazione e di cui era già in atto la deportazione, così cui incombeva la pena di morte. Secondo, lo sviluppo e la prospettiva di un nuovo senso della solidarietà internazionale. Nell'immediato, ciò significa anche forme di collaborazione tra diversi movimenti di resistenza, mossi dalla consapevolezza della inscindibilità della lotta nelle diverse parti dell'Europa. Per quanto riguarda l'Italia, ciò significò gli accordi tra la resistenza italiana e la resistenza francese, tra la resistenza italiana e la resistenza italiana, la partecipazione di italiani a movimenti di resistenza in altri paesi, in Francia e soprattutto in Jugoslavia, dopo l'armistizio del 1943 e il passaggio di reparti del Regio Esercito a fianco dei partigiani. Questo discorso fu importante soprattutto in prospettiva. Esso implicava la consapevolezza che il sistema degli Stati e delle relazioni che avevano terminato tra di essi tra le due guerre non avevano preservato l'Europa dal precipizio di una nuova guerra ancora più brutale della precedenza. La responsabilità ricadeva sulle chiusure nazionalistiche degli Stati, sulle politiche di autarchia, sulle gelosie e riserve di sovranità, sugli scontri tra potenze in cui erano fatte le imprese, soprattutto Stati cosiddetti tra gli esempi più probanti, la sorte della Spagna repubblicana, sconfitta nella guerra civile soprattutto dal non intervento delle democrazie e dall'intervento delle potenze dell'asse, fattore quest'ultimo determinante della vittoria di Franco. La sorte della Cecoslovacchia, già sacrificata dal Patto di Monaco, con il quale Francia e Inghilterra si illusero in un estremo tentativo di appeasement di neutralizzare la volontà espansionista e bellicosa della Germania nazista e da questa di lì a poco fagocitata in violazione dello stesso patto di morte, con totale dispregio degli interessi delle popolazioni interessate e degli accordi internazionali che avrebbero dovuto salvaguardare la sopravvivenza come Stato. Infine, lo stesso spendimento della Polonia ad opera del patto tedesco-sovietico del 1939, tra gli ultimi esempi del malessere che corrode l'Europa e che minò la fiducia nella democrazia come sistema e nelle democrazie come potenze tutrici degli stati minori e garanti contro le sopraffazioni dei grandi. In prospettiva, questo significava ridiscutere il sistema delle relazioni internazionali così come era stato vissuto tra le guerre mondiali, partendo dalla critica alla società delle nazioni. L'aspettativa di un mondo senza guerra, l'aspirazione alla pace fondata su una solida organizzazione della comunità degli Stati, capace di imparare dalla lezione degli errori attribuiti alla società delle nazioni. Ho documentato molti anni fa la presenza di questa problematica e lo sviluppo di un ricco dibattito nella resistenza italiana, che rifletteva sulle esperienze negative dell'imperialismo fascista. Altrettanto ricca di riflessioni in proposito fu l'elaborazione della resistenza francese, che non si concentrò soltanto sulla questione capitale delle future relazioni tra Francia e Germania, in modo decisivo per la sicurezza della Francia, che era stata al centro di un secolo di guerre e di invasioni. Anche essa ebbe a dibattere, oltre alle prospettive del nuovo assetto dell'Europa, la questione dei rapporti tra l'Europa e il resto del mondo, e come in altri ambiti culturali, anche nella riflessione dei resistenti francesi si riaffacciò la preoccupazione di un nuovo ordinamento internazionale, si dovesse impedire il predominio di una sola grande potenza sugli altri stati. Non vi era ispirare questa cautela soltanto l'orgoglio nazionale francese, che pure guardava ancora il futuro dell'Inghilterra, ma l'esperienza recente del predominio continentale della Germania nazista. Se si può affermare che nessuno dei movimenti di resistenza si manifestavano a propositi puramente punitivi nei confronti confronti della minaccia tra i musulmani, non per quanto riguardava i risarcimenti chiesti a quel titolo per devastazione umana e materiale subita dall'opera dell'occupazione tedesca, era anche chiaro che qualsiasi prospettiva di sicurezza per l'Europa non poteva non essere legata alla provocazione che avrebbe assunto la Germania nel nuovo contesto europeo. Ma era opinione comune che il riferimento della Germania nel contesto di una nuova Europa non potesse avvenire che dopo una prima fase in cui essa dovesse essere sottoposta all'occupazione totale da parte delle potenze della coalizione antinazista. L'espressione della massima consapevolezza si è tramite l'elaborazione dell'immigrazione politica e intellettuale antinazista, per le quali l'inserimento della Germania nella comunità internazionale non poteva andare dissociato dalla riforma democratica della Germania. La riduzione degli armamenti, la militarizzazione della Germania negli arsenali militari e nell'animo della popolazione, bandendo l'educazione alla guerra che ha prodotto un consenso fanatizzato al nazismo, doveva andare di pari passo con la creazione di una federazione degli Stati europei nel quadro di una più ampia e rinnovata Lega delle Nazioni. Sin dal 1940, dal suo esilio in Norvegia e alla vicina di impegnarsi nella resistenza norvegese, Willy Brandt, il futuro cancelliere socialdemocratico della Germania federale, affermava: nella discussione sugli obiettivi della guerra, su quelli della pace, si torna sempre al punto che la nuova Europa ha bisogno di un forte fondamento giuridico. A grandi linee si è d'accordo che una unificazione dell'Europa deve realizzarsi sulla base di una solida organizzazione giuridica internazionale. Gli Stati Uniti d'Europa non possono fondarsi su una situazione di violazioni di diritto e lesioni di trattati, quali furono tipiche degli sviluppi degli ultimi anni. Bisogna rinnovare e ampliare il diritto internazionale. Secondo Brandt, andava soprattutto respinta l'alternativa al diritto internazionale proposta dai teorici del diritto nazista nella forma di interpretazione del diritto naturale e delle istanze razziste. La questione della Germania non era l'unica questione controversa nelle discussioni tra i resistenti. Non vi era infatti unanimità neppure nei confronti di una futura Europa federale. Chi doveva appartenere o no all'Unione Sovietica? La questione è evidente, non era geografica, era eminentemente politica. L'Unione Sovietica doveva o no fare parte di un'Europa rinnovata in forma democratica? Le diffidenze nei suoi confronti non nascevano soltanto dalla natura del suo regime politico, ma anche dal timore che come grande potenza essa potesse risponderare in linea egemonica nei confronti degli Stati Uniti civili. Pensavano soprattutto presso un'opinione liberal-democratica pregiudiziali di carattere ideologico. Nel dibattito italiano c'è uno sturzo, non aveva regole nella Germania, e ad una federazione europea non potevano non appartenere la Gran Bretagna da una parte e la Svezia dall'altra, pena allo svilimento della sua funzione con il svilimento delle sue potenze principali. Per un liberale come Ernesto Rossi la presenza dell'Unione Sovietica era incompatibile in ragione del suo sistema politico e anche della sua arretratezza dal punto di vista dell'appartenenza alla civiltà europea. Spetterà ad un altro italiano, Silvio Trentin, militante nella resistenza francese e in questo senso simbolo di un nazionalismo che rappresentò un motivo reale, un suo ideale di coesione tra i diversi movimenti, che dopo il 25 luglio del 1943 tornò dall'esilio francese per prendere il suo posto nella resistenza in Italia, proporre una delle elaborazioni più organiche dei progetti di unificazione federativa dell'Europa. Trentin, che in Francia aveva fondato il movimento relativo fuori un clandestino di Verre, muoveva da una critica radicale al superamento della sovranità degli Stati, ai quali imputava sia i disordini delle relazioni sia la formazione degli stati totalitari, come avrebbe illustrato in modo organico e sintetico in un testo che circolò tra i resistenti e che poté vedere la luce solo dopo la liberazione, con il titolo Stato, Nazione, Federalismo. Si è parlato molto negli ultimi anni di identità europea, ma già alla fine del 1943 i militanti di Combat, uno dei movimenti più importanti della resistenza francese, avevano anticipato una risposta a interrogativi che torniamo a porre ai nostri giorni, sui quali non vi è più probabilmente l'unità di consensi che animò la resistenza. La resistenza europea sul giorno del saggio sarà il cemento delle unioni di domani. Gli uomini della resistenza europea saranno domani i costruttori della nuova Europa. Grazie al professor Collotti per questo ampio esame che accanto alle altre discuteremo più tardi. Io volevo chiamare il rettore professor Giuseppe Zaccaria, che porta ovviamente il saluto dell'università. Grazie, buongiorno a tutti. Io mi scuso se ho potuto arrivare solo con qualche attimo di ritardo. 70 anni fa, il primo dicembre del 43, il rettore dell'Università di Padova, prima di entrare in clandestinità e continuare la sua lotta dalla Svizzera, Roberto Manfredi, lanciò, come ben noto, il suo famoso proclama di studenti, che accanto al discorso di inaugurazione del 9 novembre si può considerare indubbiamente uno dei primi appelli alla resistenza armata contro il nazifascismo. E un caso forse pressoché unico, forse l'altro all'Università di Oslo in Norvegia, in Italia e in Europa, questo rettorato fin dal settembre, sede clandestina del CLM regionale Veneto e anche l'Università di Padova nel suo complesso, divennero il centro direttivo militare e politico della resistenza veneta. Ed è per me, sempre come rettore, motivo di grande orgoglio ricordare che unica tra le università italiane, l'Università di Padova è stata decorata di medaglia d'oro al valor militare per la sua partecipazione alla lotta di liberazione. E sempre a Padova, nel 1949, per volontà di Giulio Meneghetti, di Concetto Marchesi, di Roberto Cessi, di Sebastiano Giacometti, di Gino Luzzatto, di Enrico Opoca, di Mario Sargina, venne fondato l'Istituto Veneto per la Storia della Resistenza, un istituto che proprio in virtù del suo rapporto organico con l'Ateneo non ha mai tradito, né voluto tradire la sua vocazione di istituto con una vocazione essenziale di ricerca storica. E dunque non sorprende che oggi l'Università di Padova e l'Istituto, in collaborazione con l'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, con l'ANPI, si siano fatti promotori di questo importante convegno internazionale che vuol riflettere sul 43 quale anno di cerniera della Seconda Guerra Mondiale, con una ampia riflessione contrassegnata da uno sguardo ampio, non solo italiano, ma anche europeo e soprattutto comparato. A tutti gli illustri relatori e partecipanti, quindi il più cordiale benvenuto e il più cordiale saluto del nostro Ateneo. Io credo che per raggiungere una comprensione non effimera di ciò che accade nel 43 sia opportuno partire quella che è stata una caratterizzazione che è stata data di questo anno, della crucialità di questo momento e del quadrante italiano, sia per gli alleati italiani sia che per i tedeschi. E l'anno, come Churchill ebbe modo di definirlo, della svolta d'attacco, cioè l'anno che consegna agli alleati il dominio dei mari e dei cieli, che annichilisce il potenziale distruttivo della guerra sottomarina nazista e che assicura il controllo delle rotte verso l'Atlantico. E solo così fu possibile conquistare la Sicilia e invadere l'Italia, con poi tutti gli sviluppi successivi. Ecco, mi pare del tutto interessante, oltre che legittimo, in questa prospettiva, interrogarsi su cosa davvero rappresentò in termini strategico-militari, ma anche politici, questo fronte italiano, sia per la Germania, sia per gli alleati, oltre ovviamente che per l'Italia, dove la caduta del fascismo e l'8 settembre rappresentano una cesura essenziale per la storia d'Italia. Ma come ben sappiamo c'è un altro aspetto fondamentale, la crisi del 43 è il momento di svolta e di avvio in Italia di una fase importante di riscatto politico, di una fase di riscatto intellettuale e morale che poi io credo ben ha ragione assimilarsi al quadro dell'esperienza europea di resistenza al nazismo. E in questa Europa, che è un'Europa che non va dimenticato, era avvolta profondamente, completamente nella trama di un tragico e soffocante nuovo ordine europeo che coniugava, declinava lo sterminio degli ebrei, la schiavitù degli stati, diversi gradi di collaborazione in Occidente. Ecco, credo che anche in questo caso la prospettiva comparata sia molto utile per meglio capire quanto questi rivolgimenti del 43 abbiano indotto mutamenti significativi anche negli orientamenti, nelle modalità di occupazione nazista, ma non meno nelle forme di collaborazione che furono avviate nei paesi satelliti, ma di riflesso anche come abbiano determinato una nuova epoca e una nuova stagione resistenziale. E qui c'è tutto il grande capitolo della Repubblica Sociale Italiana, un notato che, come è stato dimostrato in un bel libro di Monica Fioravanzo, fu voluto non solo limitato quanto fu voluto da Hitler, e quindi questo sta a dimostrare che appunto fu una fase nuovissima e anche in certo senso terrificante della storia della persecuzione anche antiebraica in Italia. Ecco, a questo tema, tra l'altro, della persecuzione razziale, mi piace ricordare che l'Università di Padova diversi anni fa dedicò un pionieristico convegno dal titolo L'Università dalle leggi razziali alla resistenza del 50° anniversario della liberazione, che è curato, fu curato da Lettura, che qui vedo e saluto, e che abbiamo deciso proprio per la sua immutata importanza storiografica, anche perché esaurito, di pubblicare per i tipi della Padova University Press e sarà di prossima uscita. Ecco, volevo concludere dicendo che ho verificato e constatato con grande piacere che l'ultima sessione di questo importante convegno si terrà in un altro spazio dell'Ateneo nella mattina di venerdì, in quel mitico istituto di farmacologia che vive l'azione davvero audace, indomita e esausta di uomini come Egidio Meneghetti e Lautaro Zaccagni, uomini di scienza ma anche uomini di azione, uomini che seppero garantire l'unità politica della resistenza veneta, e sono particolarmente lieto che si verifichi questa circostanza che consente di saldare la riflessione critica, l'approfondimento critico della ricerca e dei ricercatori con quello che è la memoria di uomini che, ai quali io credo vada continuamente resa una doverosa testimonianza parte del nostro Ateneo di viva e non formale riconoscenza per il loro coraggio morale in tempi difficilissimi, e per aver avviato e guidato questo processo di riscatto dall'Italia del fascismo, anche se in molti momenti della storia repubblicana, come ben sappiamo, non molti invece, è triste quanto è doveroso ricordarlo, seppero essere all'altezza di questa statura morale. Ringrazio e vi auguro buon lavoro. Do subito la parola a Paolo Ponzi per il suo intervento. Ringrazio gli organizzatori del convegno, proprio per aver organizzato il convegno, invitato a dare un contributo sul nuovo ordine europeo nazionalista. Nel mio contributo mi muoverò su due piani paralleli. Da un lato la cosa in sé, la storia del nuovo ordine europeo di una seconda guerra mondiale, e dall'altro invece quello delle interpretazioni, che è una storia che si fa dalla fine della seconda guerra mondiale fino ad oggi. In questo percorso un po' contorto, non lineare, cercherò di mettere in evidenza come è cambiata la percezione del nuovo ordine europeo nella storiografia tedesca, soprattutto internazionale, dal 1945 ad oggi. Una premessa nel mio discorso è che il nuovo ordine europeo è di fatto un tema molto sfuggente. Sfuggente in primo luogo perché è un tema ampissimo. Se si dovesse consultare la bibliografia del nuovo ordine europeo, bisognerebbe in un luogo per diversi anni e poi conoscere tantissimi libri, perché è scritto in tantissimi libri. E secondo luogo perché di fatto con il termine nuovo ordine europeo sia coloro che hanno creduto in quel progetto sia la società successiva hanno inteso cose assai diverse, e per questo in una prima fase di questa mia intervento mi dedicherò ponendomi sul secondo piano temporale che dicevo, cioè sul piano delle interpretazioni, cercherò di capire con un approccio filologico, che cosa di fatto si è inteso per un nuovo ordine europeo della storiografia. Inizierò facendo tre esempi, della storiografia un po' datata degli anni 50-60. Un primo testo da cui si può partire è una delle prime storie del nazionalsocialismo apparsa nel 1961, è il libro di William Schiller, L'ascesa della propria personale. Il libro è una storia complessiva del nazionalsocialismo e contiene il capitolo su un ordine europeo. Leggendo il capitolo ci rendiamo conto che di fatto quel testo, questo breve capitolo, racconta poco o niente di come i nazionalsocialisti pensavano di riordinare l'Europa della guerra, secondo i propri principi. Il capitolo narra piuttosto la realtà dell'Europa occupata dal 1939. Un breve capitolo è dedicato alle idee di Hitler, del suo nuovo ordine europeo, un altro dedicato a registrare lo sfruttamento dei paesi occupati, dei satelliti da parte della Germania, lo sfruttamento economico, un altro dedicato agli esperimenti medici sugli internati dei campi di concentramento, e infine un paragrafo illustra la violenza praticata dai paesi agricoli. In sostanza, devo uscire il riferimento al nuovo ordine europeo serve a mettere in evidenza piuttosto l'assenza dell'Europa, l'assenza di una politica europea che non fosse pura violenza, il razzismo come politica di violenza, e in fin dei conti quello che un commentatore contemporaneo del nazionalsocialismo, che inizialmente è stato molto vicino al nazionalsocialismo, che poi si è distanziato, Herman Rauschen, definiva delle funzioni dell'individualismo. Nel capitolo di Cile non è alcun tentativo di distinguere sostanzialmente tra progetto imperiale del pubblico e la realtà della politica di occupazione, che era di fatto determinata da moltissimi elementi differenti dal piano. Un secondo esempio, che va nello stesso senso, che mette in evidenza lo stesso approccio all'ordine europeo, è un libro di Lothar Bruckmann, scritto nel 1962, la sua tesi di dottorato, pubblicata dall'Istituto Italiano di Scienze. Il libro analizza la teoria del Großraum del giurista Karl Schmitt. Großraum è un grande spazio in italiano. Nella visione nazionalsocialista il mondo del dopoguerra sarebbe stato diviso in tanti Großraum, in tanti grandi spazi, e l'Europa sarebbe stata uno di questi. Ora, la teoria di Schmitt, nella teoria di Schmitt, la costruzione del Großraum nazionalsocialista si fondava su una teoria che non è altro che una divisione per l'Europa, per il primo mondo che gli Stati Uniti avevano proclamato per l'America. Come gli americani avevano proclamato la supremazia nei campi dello spazio e il divieto di interventi di potenze strane sullo spazio, nello spazio, e lei proclamava il suo diritto a fare lo stesso in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Nella teoria Schmitt non sarebbe più esistito un diritto internazionale universale, ma tanti ordinamenti locali corrispondenti ai grossoli del mondo. Contro l'universalismo imperante, che Schmitt aveva combattuto durante tutta la sua produzione scientifica, Schmitt proponeva una versione localizzata per orte, questo è localizzata il diritto. Il diritto era unità di ordine e di luogo. Guckmann, lo storico che si occupava di questo problema nel 1962, si poneva l'obiettivo del libro di mostrare le consistenze di questa teoria. Da un lato, Guckmann, sulla base dei documenti che mostrava che l'Italia non aveva di fatto alcuna idea sulla relazione con l'Europa, nessuna attenzione verso un ordine superiore. Era solo un dominio tedesco e annientamento di altre nazioni. Dall'altro, Guckmann mostrava che il fatto che Hitler usava la teoria di Schmitt solo per motivi politici, cioè per evitare l'entrata in guerra degli Stati Uniti, convincendosi da parte dell'Unione Pubblica americana isolazionista a evitare l'entrata in guerra degli Stati Uniti. Infine, che la teoria di Schmitt, diceva Guckmann, era inconsistente e contraddittoria. Il nazionalsocialismo tendeva verso la tuta alla distruzione di ogni forma di diritto internazionale, non solo membri nazionalsocialisti erano in contrasto con il diritto internazionale, ma anche lo stesso il nuovo ordine europeo voleva dire annientare questo forma di diritto, perché non riconosceva la sovranità come principio basilare del diritto internazionale. Anche qui vi era diciamo, una negazione nell'approccio di Guckmann rispetto ottimo di nuovo ordine europeo, non c'è nulla di nuovo, non c'è nulla di ordine europeo. Questa letteratura dunque si usava in termini di un ordine europeo piuttosto per mostrare che non vi era alcuna forma di ordine europeo, un uso polemico, consapevolmente in contrasto con la linea, diciamo, il linguaggio ufficiale di nazionalsocialismo. Per capire cosa il nazionalsocialismo invece impedisce di un nuovo ordine europeo, possiamo dare una pubblicazione contemporanea, vocabolario del nazionalsocialismo, che elenca tutti i termini chiave del linguaggio politico nazionalsocialista e dà una definizione sulla base della letteratura di cultura. Europeice non ho, è la voce, diciamo, che cito il dizionario, una mia traduzione un po' improvvisata. Termine di valore positivo dal punto di vista del nazionalsocialista, designazione dei diritti di guerra nazionalsocialisti, una nuova Europa con nuovi confini, in base agli interessi economici del nazionalsocialismo e dipendenza graduale dei paesi satelliti, non libri sotto il predominio del terzo raggio. Questa è la definizione del vocabolario. Un dizionario del 1940, il Furstrockhaus, scriveva sotto la voce Europa, definendo la posizione nazionalsocialista. Per preservare e sviluppare la forza creatrice della cultura occidentale, il nazionalsocialismo mira alla creazione di una comunità di popoli europei che sulla base del riconoscimento delle differenze tra i popoli, pur nel pieno rispetto dei loro sistemi politici, che però unica vivente. A questo scopo, in questo Reich, l'Italia e la fascista si sono uniti nell'asse comune. Nel linguaggio nazionalsocialista si sono posto contrapporre elementi negativi, ovviamente la nazionalsocialista, delle politiche di occupazione, lo stesso sfruttamento economico era presentato ovviamente una propaganda degli europei come un elemento negativo, cementato dalle condizioni di guerra che imponevano di estrarre l'Europa, il contributo che l'Europa dava alla guerra nazionalsocialista. Si contrappone però spesso una propaganda visto a un nuovo ordine europeo che era invece un aspetto positivo, cioè, come dire, l'ordine che in futuro avrebbe sostanzialmente trasceso la realtà caotica e conflittuale della guerra. Quindi un uso opposto a quello che la storiografia invece sa dare a questo termine, che la storiografia che ho citato sa valere a questo termine. Un terzo esempio di questo funzionamento molto, mi sembra molto indicativo di questo approccio della storiografia. Paul Klug, uno storico caso del 1908, nella rivista che si chiama Uscite nel 1955 pubblica un saggio dal titolo Ideologia europea nazionalsocialista. Il saggio era in diretta polemica con il testo di un altro storico tedesco, Otto Westphal, l'obiettivo era di costruire da ex fascista Otto Westphal la cultura della guerra mondiale. Westphal cercava di mostrare come Hitler avesse intrapreso una crociata bolscevica per difendere l'Europa dall'invasione asiatica, per salvare l'Europa dalla sua crisi. Comunque queste tesi di Westphal erano assai pericolose e dunque lui il saggio mostrava come era una posizione europea a un altro punto della propaganda. Questa sfiducia verso la parola ordine, verso la parola ordine diffusa come ordine europeo, caratterizzava quindi la prima sovietica tedesca e anche quella internazionale uscita verso la parola ordine. Per la Germania, come si dice, non per Frey, va detto che la società tedesca degli 50 era ancora fortemente impregnata dall'esperienza fatta durante il nazionalsocialismo, in continuità e in capacità della continuità del passato erano ancora giovani. E quindi era una società che mirava piuttosto a esorcizzare l'esperienza del nazionalsocialismo, negando sostanza di realtà ai valori d'ordine più usate dal nazionalsocialismo, quelle che concentravano, che racchiudevano in sé il progetto nazionalsocialista, forse di Mannschaft, no? È una parola ugualmente scritta di contenuto, e lo stesso si può dire per la parola di nuovo ordine europeo. Un altro elemento è che spiega questo atteggiamento è il fatto che contemporaneamente si fosse, era in corso la costruzione dell'Europa democratica e quindi era sostanzialmente naturale contrapporre l'Europa democratica, negando sostanzialmente ogni forma di progettualità di tipo europeo. Questo tipo di atteggiamento propongo su questo per non essere per non sforare i 40 minuti concessi, rimane anche una storia che rischia negli anni 60 e 70 nella contrapposizione tra invenzionalismo e strutturalismo, da un lato coloro che ritenevano che la storia del nazionalsocialismo fosse determinata dalle idee di Hitler e di Popov del nazionalsocialismo, dall'altro coloro che ritenevano che invece la storia del nazionalsocialismo andasse letta in senso strutturale, quindi non invenzioni ma evoluzione di strutture. E se da un lato vi era necessità, ci si concentrava eccessivamente sulle idee di Hitler e ci si dimenticavano la società attivista si sentiva un po' meno attivista, dall'altro passare invece in secondo piano lo studio di ideologia nazionalsocialista di fatto, che fu abbastanza trascurato dallo strutturalismo. Va detto che la valutazione del progetto dell'ordine europeo dal punto di vista anche scientifico, diciamo, è immobilitabile che dal punto di vista morale non abbia fatto una possibilità, ma dal punto di vista scientifico porta su degli elementi, diciamo, concreti. Durante la seconda guerra mondiale è stato sempre ostile a dei programmi di un ordine che mostrasse agli altri popoli quali erano i piani del nazionalsocialismo. Ernst von Weizsäcker, nel suo diario, il segretario di Stato del Ministero degli Esteri, nel suo diario scrive nel maggio del 1943, il più dice confidenzialmente che la ragione per cui non dobbiamo entrare in discussione di un ordine in Europa è che i paesi vicini sono tutti nostri nemici. Dobbiamo prendere da loro ciò che riusciamo a prendere senza prometterlo con noi. Questa ostilità chiude verso ogni ufficiale dell'ordine del dopoguerra, fu decisiva nel 1940, quando dopo la sconfitta della Francia, molti germani e tedeschi si aspettavano che il Terzo Reich manifestasse le proprie intenzioni per il dopoguerra. Rimase decisiva anche nel 1943-1944, quando molti esponenti del regime tentarono di convincere Hitler a cambiare opinione e a proclamare una sorta di carta politica europea. Progetti di federazione. Vi sono numerose testimonianze di Goebbels in questo senso, e il ministro degli esteri, proprio con rispetto, nell'aprile del 1942, fondò un comitato Europa presso il loro ministero, che aveva il compito di raccogliere materiale per verificare un nuovo ordine da stabilire in Europa. Fu un'iniziativa che Ribbentrop pensava di spingere nel senso di una proclamazione di un ordine dopo una vittoria militare, che dopo il 1943, quindi questo progetto poi finì un po' in nulla. Va detto però che nel 1940 molti leader nazionalsocialisti di fatto condividevano l'ostilità del Führer a parlare di un ordine europeo in modo troppo aperto. Nel 1940 la Germania aveva l'impressione fondamentalmente di poter decidere da sola gli stili in Europa, e gli italiani erano consapevoli che i rapporti diplomatici del Regno sono sempre sono pieni di preoccupazioni da parte di diplomatici italiani, il fatto che la Germania sta di fatto pensando da sola a come strutturare il continente, a chi l'Italia un ruolo assolutamente marginale nel mondo europeo. E quindi questa impressione, la sensazione di poter decidere da sola di esistere nel continente, invece sì che la Germania, che i maggiori leader nazionalsocialisti non volessero legarsi le mani con delle promesse fatte prima della fine della guerra, e poi al tavolo di stare in pace, poi sarebbero state di fatto incorrono per il Terzo Reich. E un altro uno dei tanti elementi che danno ragione a queste prime interpretazioni del mondo europeo è anche il fatto che vi fu effettivamente un forte conflitto tra piani e realtà dell'Europa occupata, tra progetti per il dopoguerra e realtà, tra i conflitti. Tra i tanti conflitti che vi furono, uno certamente il fatto che tra le contraddizioni che vi furono, uno è certamente il fatto che la dirigenza nazionalsocialista nel 1940 si trova nelle mani un potere che non aveva pianificato di bene. La vittoria sulla Francia portò, mise nelle mani del Terzo Reich un potere e su degli spazi per cui non vi erano sostanzialmente dei campi. Il nuovo ordine europeo nel 1940, soprattutto verso le regioni, verso i paesi occidentali. sociali occupati, non fu affrontato con una sostanziale assenza di idee precedenti. Diverso il caso di un ordine che invece era adesso, per cui diciamo, vi era l'elaborazione di un nuovo periodo, diciamo, del massimo socialismo, e nel 1941, con l'invasione dell'Unione Sovietica, viene fatto, prima dell'Unione Sovietica, viene fatto una lunga fase di preparazione e di pianificazione, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico, con il piano di creare gli inventori occupati dell'Unione Sovietica, quattro reis commissariati, che vedete poi sono costituito anche la struttura centrale. Eppure la letteratura che ho citato inizialmente, per tornare al piano delle interpretazioni, è effettivamente limitata a diversi punti, quella prospettiva a diversi limiti. Uno di questi è sottovalutare delle zone e delle parti della storia del mondo europeo che non coincidono con la storia dell'SS o degli organi centrali del potere, ma sono di guardare invece ad altri settori sociali. Di fatto vi fu l'elaborazione o il tentativo di elaborare dei progetti europei. Mi sembra che nella storiografia di tutti 20-30 anni questi aspetti siano venuti molto invece in primo piano. In questa storiografia vi è sostanzialmente tra gli aspetti di novità importanti in questa storiografia, questo cambio di prospettiva sul massimo socialismo che c'è stato in più di 20-30 anni, vi è certamente una valutazione della centralità dell'ideologia. Sembra un po' una cosa per spiegare meglio cosa voglio dire. L'ideologia non è più intesa come prodotto di intenzione dell'individuo, quanto piuttosto come un elemento fondato nel senso discorsivo, si dice nel linguaggio un po' accademico, cioè come qualcosa di sovraindividuale, non solo prodotto di intenzione dell'individuo, ma come prodotto di un'intera società e appunto come qualcosa di profondamente inserito nel contesto sociale che va studiato in questo tipo di contesto sociale. Da questo punto di vista la fase del 1939-41 è stata particolarmente studiata. Inizialmente, se fosse detto una storiografia tedesca e internazionale, uno spostamento di prospettiva molto chiaro dallo studio del nazionalsocialismo negli anni precedenti alla seconda guerra mondiale allo studio degli anni della seconda guerra mondiale. Ci è una produzione storiografica enorme sugli anni della seconda guerra mondiale in Germania, invece prima la storia tedesca tendeva a concentrarsi sul periodo precedente. All'interno di questa storiografia viene valutata e studiata, dal punto di vista scientifico, la fase in cui il nazionalsocialismo giunto all'apice del suo potere, prima che la campagna contro l'Unione Sovietica volgesse al peggio, viene giunto il momento di fare sistema, cioè di realizzare i propri piani. In questo senso che fu una sorta di esplosione di energie in questo periodo, un'esplosione motivata dalla sensazione di trovarsi di fronte a una svolta, avere davanti uno spazio di manovra nuovo e potenzialmente limitato, cioè di realizzare il nazionalsocialismo nelle diverse versioni che la flessibilità dell'ideologia aveva consentito di sviluppare una sorta di nazionalsocialismo plurale. E questo è un altro elemento che mi sembra importante in questo passaggio di prospettiva della storiografia, cioè il riconoscimento di fatto di una pluralità di concezione nazionalsocialista all'interno del nazionalsocialismo. Cioè l'idea che l'ideologia deve essere posto come un campo all'interno del quale viene limitato verso l'esterno, verso i nemici del nazionalsocialismo, all'interno del quale però erano possibili diverse interpretazioni di cosa può essere il nazionalsocialismo. Mi sembra che un testo molto importante che ha segnato il cambiamento di prospettiva sul sistema socialismo negli anni della guerra, sia un libro pubblicato nel 1990 con una Piozzali e Susanne Hahn, dal titolo Precursore dell'ambientamento, Auschwitz e i piani di distruzione del continente europeo. Il libro traccia una sorta di linea continua, una storia di continuità che va da progetti di ingegneria demografica sviluppati già prima della guerra e anche parte prima del nazionalsocialismo e non solo a livello razziale, ma con un forte elemento di politica sociale, mediante modernizzazione, che passava tramite questi progetti demografici. Gli autori, ad esempio, mostrano come in Austria, sul Romanus, nel 1938, tramite la realizzazione si perseguissero parallelamente dei progetti di eliminazione del piccolo commercio, di razionalizzazione del piccolo commercio. Secondo gli autori, questo esperimento rimase come una sorta di modello anche negli anni successivi, quello che chiamano i modelli PIN. In questi piani era un elemento centrale, quello che secondo gli autori è un filo rosso della pianificazione del socialismo in Europa, cioè il concetto di sovrappopolazione. Sulla base di questo concetto si proponevano piani di modificazione della struttura demografica di un territorio, a quale gli strumenti andavano alla deportazione di massa fino allo stabilimento di massa. I teori si concentrano, si pare bene, su centrale di Hitler o della dirigenza nazionale socialista, ma studiano i reti tecnici che le strutture del nazionale socialismo operavano soprattutto nelle regioni occupate. Ed è a questo livello, lo Stato della burocrazia, che secondo gli autori va trovata questa continuità profonda tra progetti demografici e annientamento, e l'annientamento realizzato durante la postazione di Hahn ha ispirato una corrente di studi sviluppata di economia della situazione di campo, questa era la loro definizione, cioè del rapporto tra progetti ingegneria sociale del nazionalsocialismo e lo stabilimento. Questa storiografia si basa fondamentalmente su una reinterpretazione della modernità. Il sociologo Sigmund Bauman ha proposto in questo senso la figura dello Stato giardiniere, cioè lo Stato che considera la società come un giardino da progettare, di cui piantare e delineare le erbacce, e la dinamica nazionalsocialista viene inserita all'interno di questo progetto moderno. Vi è quindi una, dopo questo libro, è stata una grossa serie di studi che è andata in questo senso, molto breve, cursori, alcuni studi, ad esempio, sulla pianificazione, sulla stesura di uno Hunger Plan per l'Europa orientale, cioè i mesi precedenti l'inizio della campagna di Russia, sostanzialmente nelle istituzioni del Terzo Reich, c'è questa strada, l'idea di lottare la produzione alimentare in alcune aree dell'est, in Ucraina in particolare, verso il Reich, causando questo in modo causando la morte di un numero imprecisato di persone per fame. E secondo alcuni autori che appartengono solo a più tardi sostanzialmente anche qui il concetto di sovrappopolazione viene ma però dico che questa loro interpretazione del rapporto tra sovrappopolazione, teoria della sovrappopolazione termina, è stato anche molto contestato sia in Germania che nella storia internazionale, direi che non è stato poi recepito dagli studi successivi. Quello quello che invece è stato riuscito e trovato poi una, un seguito notevole nella sua vita successiva, invece è lo studio di, diciamo, di questo livello di, diciamo, di questi di questo livello di pianificazione che sta immediatamente sotto il livello diciamo di anni più alti della politica, cioè la pianificazione dei tecnici. In questo senso ci sono stati moltissimi studi in Germania sulla partecipazione della cultura ai progetti nazionalsocialisti, non necessariamente in una prospettiva di causa-effetto, ma diciamo, semplicemente cercando diciamo, di comprendere come diciamo, di fatto le idee non seguivano la nazionale socialista, ma questa nazionale socialista vada inquadrato di fatto all'interno del progetto sociale, cioè condiviso dalla società tedesca. E in questo senso, ad esempio, alcuni studi hanno mostrato come un Hunger Plan, il piano diciamo, per affamare la popolazione dell'est, fosse stato in realtà un'idea di un tecnico, Herbert Pack, del sottosegretario del Ministero dell'Economia, che Ministero per l'alimentazione e l'agricoltura, che già prima della guerra, nella sua crisi di rottura, aveva proposto un nuovo Europa dal punto di vista alimentare. Quindi vi è un'elaborazione diciamo, di lungo periodo di queste idee che poi si realizzò durante la Seconda Guerra Mondiale e che diciamo, questi tecnici assunsero delle posizioni di potere all'interno del regime che diciamo, diede loro diciamo, la possibilità di esplicare queste idee in quello che allora veniva considerato uno spazio vuoto, cioè in questa Europa che era uno spazio da rimodellare secondo questi progetti. Ecco, mi sembra che sia interessante in questo senso, che sia interessante di sulla possibilità post-fosci, cioè su quella, diciamo, su quella parte diciamo, della cultura accademica che si occupava degli insediamenti tedeschi nell'Europa orientale, che studiava la storia, la cultura, il diritto, una scienza nata immediatamente dopo la prima guerra mondiale e che dopo il 1933 fu utilizzata dal nazionalsocialismo per giustificare i propri piani diciamo, di espansione. E la studi sulla post-fosci sono diventati numerosissimi in Germania e mettono in evidenza come ci fosse un utilizzo strumentale di questi intellettuali da parte del regime, ma come se fosse una mobilitazione spontanea da parte loro nella realizzazione di questo progetto. Altri studi, ad esempio, sulla cultura, sul sistema della cultura, hanno messo in evidenza, hanno studiato il cosiddetto intervento in guerra delle scienze possibili, il Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften, cioè l'iniziativa di mobilitazione dal basso, che è l'iniziativa intellettuale delle scienze umane, a favore e a supporto della guerra nazionalsocialista. Iniziativa diretta dall'attivista Paolo Victor Busch che mirava a coinvolgere quanto più possibile intellettuali tedeschi nelle discipline più diverse in questa azione di supporto culturale alla presenza tedesca di Germania, Polonia e di Romania sul continente. In tutti questi studi è una cosa diciamo, ormai accertata la storiografia è centrale diciamo, il concetto di Raum Planung, cioè il concetto di pianificazione dello spazio, che è sostanzialmente una sorta di metascienza che unisce diciamo, tutte queste discipline diverse nel progetto di ridare, diciamo, di riprogettare lo spazio europeo. E infine un interessante caso di collaborazione culturale europea è stato studiato da Daniel Martin che si è occupato della Europäische Schriftstellervereinigung, cioè l'Unione degli scrittori europei, fondata nel marzo del 1942 a Panna, fondata dai tedeschi con un diretto intervento del Ministero della Propaganda e un'unione che includeva settori di molti paesi europei per creare una letteratura europea a supporto del progetto di nuovo ordine. Quello che è interessante per l'interpretazione di questo fenomeno, Martin, c'è una parte del storico del Benjamin Martin, è il fatto che non si questo progetto non viene etichettato con una propaganda. L'autore infatti mostra come il tentativo di creare una letteratura europea da parte del nazionalsocialismo poggiasse su una cultura crescente. Negli anni 30 si è diffusa sempre di più la critica al modello di letteratura europea o francese, un concetto di letteratura orientato al modernismo e basato sull'idea di incarnare una tradizione europea di tipo razionalista. Questa cultura, questa questa cultura diffusasi dopo la prima guerra mondiale come reazione al nazionalismo precedente fu messa in modo crescente sotto attacco negli anni 30 da scrittori che invece vantavano il nazionalismo, o meglio che desideravano sposare nazionalismo e l'europeismo, quindi di creare un altro ideale di letteratura europea che coniugasse nazionalismo e l'europeismo, soprattutto che rivalutasse i più locali. A questa tendenza si riagganciò questo tentativo di unione di istituti europea. E ciò che è interessante è che di fatto questo progetto poggiava su una cultura precedente, era condiviso da molti scrittori moscovitesi. E dunque questo conferma quanto dicendo questa nuova tendenza di studi sul nuovo ordine europeo. Il nuovo ordine europeo viene sempre più interpretato come un progetto dal basso, in cui sfociò l'automobilizzazione di massi settori della società turistica. Per concludere, appunto, riassumendo quello che ho detto nel mio intervento, questa nuova interpretazione mostra appunto come il nuovo ordine europeo fosse il progetto di una società, non di uno solo, come esso fosse in forte continuità con la storia della società prima e dopo il nazionalsocialismo, perché molti di questi studi mettono in evidenza come queste idee poi avessero un seguito nella Repubblica Federale Tedesca, perché molti di questi rituali poi divennero delle storie di continuità nella Repubblica Federale Tedesca. Come il progetto di un nuovo ordine europeo fosse in continuità anche con la storia europea, come fosse solo una specificità tedesca, ma come Paradiso inserito all'interno di una più lunga storia della modernità europea. E infine, questi sono le ultime tendenze della storiografia. Come in realtà la prospettiva sul nuovo ordine europeo vada globalizzata. E cioè, mi spiego, alcune pubblicazioni recenti cercano sempre più di mettere, di leggere il progetto nazionalsocialista di nuovo ordine europeo in controluce rispetto alla storia dell'impero. Si vedono cioè se per Hitler l'Europa fu quello che l'India fu la Gran Bretagna, quello che l'Ovest fu le colonie dominanti. È la tesi di un libro di Karel Kappel, in cui un autore si occupa, mette a paragone l'idea dell'Ovest americano e l'idea dell'Est nazionalsocialista. E Marco Masala e Shelley Baranowski hanno scritto recentemente, poco a distanza l'uno dall'altro, due libri in cui tracciano una continuità tra l'imperialismo europeo e l'idea e le pratiche del mondo europeo nazionalsocialista. E uno storico che era utilizzato in comune stanno argomenti, scrive la strada della cultura pacifista è estremamente complicata. La tendenza è c'è un consenso crescente sul fatto che una di queste migliori strade possa essere trovata in nuovi signori subalterni di razza e spazio che fu l'imperialismo del XIX secolo. E su questa discussione diciamo che è ancora aperto, è molto, questa tesi è molto criticata, ci sono molti storici, chiudo l'intervento e vi ringrazio. Visto che siamo un po' in ritardo, io direi di fare immediatamente il break, ma di 10 minuti, 12 al massimo, per tornare con tutta la discussione. Grazie. Vieni, adesso dove vai? Dai, su, faccio una chiamata, ma dopo io rimango qua quasi quasi. Ti conviene? Cosa hai detto? Non è tutto. Tutto quello che vuoi, monete. Ho tre portafogli. Aspetta che vuoi questi due, sto qua.